giovedì 2 febbraio si terrà al Gallery 16 un nuovo appuntamento di Riffology, la rassegna nata dalla collaborazione tra il SEM Music Store e Aldo Betto, incentrata sulla storia dei riff. E siamo qui ora proprio con Aldo Betto. Ciao Aldo. Ciao, ciao, ciao a tutti, eccoci qui. E intanto grazie mille per essere qui, anche se non fisicamente, e è un piacere conoscerti, anche se appunto non di persona. Iniziamo subito, parlaci di questa iniziativa, come è nata l'idea? Ma guarda, allora, innanzitutto frequento SEM, il negozio di dischi di Over da parecchi anni, siamo amici da un sacco di tempo e chiaramente si parla sempre di musica quando si passa di là, e già da parecchio tempo, come dire, già parecchio tempo fa c'era venuta questa idea di, come dire, di raccontare dei pezzi di storia della musica attraverso appunto i riff. Cosa sono i riff? I riff sono quella parte musicale di solito di chitarra che in qualche maniera marchia il brano, no? Che dà la riconoscibilità al pezzo, quello è un riff, e attraverso appunto io faccio, suono questi riff, è un pretesto per raccontare degli aneddoti, delle storie del rock, ma a volte non solo, anche del funk, eccetera. Chiaramente la storia della musica è pienissima di aneddoti incredibili. Tu sei infatti un grande appassionato di musica, però sei anche musicista, rockstar e insegnante. Quanto c'è in questo progetto dell'insegnante e quanto c'è del resto? Ma guarda, più di tutto c'è la passione, no? C'è la passione per la musica in genere e anche la passione per chi la musica la fa, cioè che sono anche molto interessanti questi personaggi contraddittori che, come dire, che scrivono musica, che hanno inventato degli stili, che hanno fatto a volte addirittura anche costume, no? Sono usciti, diciamo, anche dal recinto di quello che è musica per diventare proprio qualcosa di tutti, ed è sempre bello analizzare e poi anche raccontare. Quindi sì, c'è innanzitutto la passione per questo mondo qui, ma poi c'è un po' di tutto, c'è un po' l'aspetto, come dire, narrativo, che magari è quello degli insegnanti, ma è un po' tutto quanto, hai ragione, forse in proporzioni uguali. E invece so che ti capita spesso di fare jam sessions in diversi locali di Bologna. Quanto è fertile il terreno qua, appunto in questa città, per questo tipo di iniziative? Ah, fantastico, guarda, sì, io le tengo principalmente in un locale che è il Cortile Caffè da tanti anni, cioè 10 anni ormai quest'anno che le facciamo, e sono tanti ed è molto molto bello, e via via nel tempo poi ovviamente a Bologna è una città molto fertile, sono nate tantissime jam session qui e lì, sicuramente ti cito quella dello Sghetto che mi piace moltissimo come vibe, ma ce ne sono poi tante altre in città, ne stanno ancora nascendo di nuovo e tutto. Che io, che giro molto a suonare in giro per l'Italia anche all'estero, ti posso dire che Bologna è una figata, cioè Bologna c'è un fermento creativo in questo momento qui fortissimo, cioè tutta una generazione di musicisti giovani dai 16-18 anni in su che suonano, cantano, scrivono delle cose molto molto belle, molto belle, sono bellissime, e credimi che proprio in giro non è sempre così, e Bologna è un posto speciale per la musica, c'è poco da fare. E alle jam lo senti questi talenti pazzeschi, senti delle improvvisazioni sul momento, sia ripeto di strumentisti ma anche di freestyle, di gente che canta, che racconta delle storie attraverso dei testi, bello, molto bello, molto molto bello, cioè è un bel momento secondo me per la musica in città questo qui. L'ultima domanda che ti faccio riguarda l'appassionato di musica invece, sì. Cioè qual è il tuo riff preferito? Visto che si parla di riff, il qual mio è riff quello preferito? Ma è una domanda bellissima questa qui, perché mi mette in difficoltà. Santo cielo, immaginavo che tipo fosse una domanda un po' così. Cavolo, è bellissimo, è una domanda che ha una risposta chiaramente multipla in base al momento, adesso te ne posso dire uno, tra 10 minuti te ne direi un altro. Certo. Cavolo, ma me ne vengono in mente veramente mille, veramente mille. Uno che ti viene, il primo che ti è venuto in mente quando ti ho chiesto. Sai cosa ti dico, mi viene in mente John Lee Hooker, quello di Boom Boom in questo momento qui. Ok, bene, bene, bene. Sì, sì, sì, una cosa arcaica, blues, che però è stato un po' il germoglio per tante altre riff poi a seguire. Perfetto, ok, allora grazie mille, invitiamo quanti più possono a partecipare questo giovedì. Giovedì, appunto. Certo, alle 9:30 iniziamo, siamo in via Nazariosauro, appunto il Gallery 16, e questo appuntamento di Riffology sarà tutto dedicato alla musica funk, sì. E sarà un pretesto per raccontare un sacco del di storie. Funk. Grande, sì, mi piace da matti suonarlo. Quindi racconteremo di James Brown, ma non solo, e di Funkadelic, George Clinton e tutta l'epopea che arrivò fino a Prince, Michael Jackson e un sacco di altri nomi. Quindi sarà un appuntamento molto divertente. Perfetto, grazie mille allora. Grazie a tutti voi, grazie Giulia.